Terremoto in Emilia, oltre 30 scosse nella notte, danni per oltre 2 miliardi di euro, Clini 15 anni per mettere in sicurezza il suolo. Il governatore della Banca d'Italia Visco, ridurre le spese e le tasse, la ripresa sarà possibile a fine anno. Per il numero uno della BCE, Mario Draghi, occorre un chiarimento politico, i politici chiariscano il futuro dell'Unione Europea. Nigeria ha rapito un ingegnere italiano, stava effettuando un sopralluogo. GR24, buongiorno, ben ritrovati. In apertura torniamo in Emilia-Romagna per vedere qual è la situazione oggi. Siamo ancora con la nostra inviata Raffaella Calandra che si trova a Mirandola. Buongiorno Raffaella. Sì, buongiorno, e dai gazebo divenuti uffici comunali, ora la fila in questo istante si è spostata al tendone trasformato in mensa nella più grande dei campi per i terremotati qui a Mirandola. I disegni dei bambini sulle pareti riproducono la grande mescolanza internazionale degli abitanti in questa tendopoli, ma queste facce colorate e sorridenti sono molto distanti dalle angosce dipinte sui visi dei loro genitori, angosce per le scosse che si ripetono, una trentina lo dicevate, solo questa notte, angoscia per i danni provocati, angoscia tanto per la casa crollata quanto per il lavoro ora incerto. In entrambi i casi la richiesta di tutti è partire subito, quantomeno con le perizie comunali sui danni. Stavolta, dopo questo secondo terremoto, c'è il divieto, ad esempio, ad entrare nei capannoni della zona rossa, e comunque stavolta non ci accontenteremo più solo delle perizie di parte, ammette una giovane imprenditrice, Monica Cavazza, venuta qui in comune a dire che lei però questo weekend deve riprendere, sentiamola. Per poter liberare l'azienda, per poter lavorare, devo avere il materiale per poter lavorare nel fine settimana, perché sennò è un problema. Lei ha fatto fare già le verifiche sul suo capannone? Adesso ho fatto la richiesta, adesso. L'avevo fatta l'altra volta ma non c'è stato bisogno e adesso l'ho rifatta. Quindi aspetta che ci sia la verifica? Assolutamente sì, questa volta sì. La testa è mia, la vita è mia e la responsabilità sui dipendenti è mia. Perché invece l'altra volta com'era andata? L'altra volta sono venuti dei periti chiamati ovviamente dal padrone del capannone, quindi noi ci siamo fidati di loro, però adesso basta. Dopo il primo sisma del 20, infatti, solo una parte dei capannoni fu controllata da squadre comunali, circa 150 siamo venuti a sapere. Tutto il resto fu certificato da ingegneri privati e da qui ricomincerà anche l'inchiesta di Modena su quelle strutture collassate tragicamente sui loro operai. Sui visiti ai terremotati c'è però anche tutta l'incertezza per il lavoro futuro, come l'ansia di un drammatico bivio per i dipendenti di quelle ditte che non vogliono aspettare, come ci dice Hamed. Stanno lavorando anche dopo il secondo terremoto? Sì, non lo sanno che fine fanno, se uno c'ha paura di perdere il posto e se non va a lavorare va a perdere il posto. E per ora da Mirandola è tutto. Grazie Raffaella Calandra. E ha parlato anche il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Per mettere in sicurezza il suolo saranno necessari almeno 15 anni, così il ministro rilancia la necessità di un piano di sicurezza nazionale. Ho cominciato a parlare di un piano nazionale per la sicurezza del territorio a novembre, appena insediato, e contestualmente ai disastri che abbiamo avuto alle Cinque Terre, nella Lunigiana e in Sicilia. Certo, dobbiamo avere un piano nazionale per la sicurezza del territorio che duri il tempo che serve, almeno 15 anni, che sia sostenuto da investimenti privati agevolati e da finanziamenti pubblici. È una priorità, è una grande infrastruttura per la crescita del nostro paese. L'evento sismico degli ultimi 10 giorni richiama la necessità di questo intervento. E sono 15.000 gli sfollati, 23 i campi che sono stati allestiti dalla Protezione Civile. Una vita che cerca quindi di riprendere in Emilia-Romagna. Questa mattina a prima edizione vi abbiamo raccontato come comincia la giornata per chi è costretto a dormire fuori casa. Lo faremo anche nelle prossime mattine per raccontarvi il risveglio nei campi. Così oggi a Mirandola il racconto di sfollati e soccorritori. Io la notte non è che riesco a dormire più di tanto, cioè comunque sai quelle scosse che ti fanno proprio paura. Quanti siete nella tenda? 4. Adesso di che cosa si ha bisogno soprattutto qui in questo campo? Un po' di tutto ci vuole. Questo caldo è terribile, sì, nelle tende. Troppo, troppo, troppo, troppo, che non si può neanche stare durante il giorno, troppo caldo e si muore, più che altro si muore in tenda proprio. Una cosa malissima, si vive sempre con la paura,

cassa ordinaria, cassa straordinaria o cassa in deroga, dei problemi non ce ne sono. Sul Sole 24 Ore abbiamo letto una storia proprio stamattina di un imprenditore che lamentava invece una difficoltà nel credito nei confronti delle banche, dimezzato a questo punto dopo il sisma. Questo è un problema. Questo è un problema. Noi stiamo lavorando insieme alla Regione per trovare coperture di rischio per le banche, in modo tale che possano essere finanziati anche le imprese che hanno una classe di merito, un rating non troppo elevato, e quindi non fare delle discriminazioni che in questo momento sarebbero, come dire, insopportabili. E sempre su questa questione del lavoro nei capannoni e di quello che purtroppo è accaduto, sentiamo il parere di Donato Pivanti, segretario della CGIL di Modena. Noi abbiamo la sensazione che in generale, giù nella bassa, gli imprenditori abbiano capito la drammaticità e quindi la necessità di andare con grande cautela. Ieri abbiamo detto, si fa nel comunicato, non si rientra a lavorare prima le verifiche, in ogni caso la gente deve superare anche di fronte alle verifiche e le paure. La gente non dorme in casa, è evidente che chiudersi in un capannone è drammatico. Il capo dello Stato l'ha già ribadito, la parata del 2 giugno si farà, anche se in tono minore, nonostante il terremoto dell'Emilia, anzi ha il valore proprio, ha detto Napolitano, di rafforzare l'unità, ma le polemiche restano, e allora facciamo il punto con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. In queste ore soprattutto sul web, che continua a montare la rabbia contro la sfilata delle forze armate, preoccupano in particolare le proteste che arrivano dall'universo antagonista e che dopodomani potrebbero anche sfociare, si teme, in alcuni blitz in via dei Fori Imperiali. Il Popolo Viola intanto oggi consegna a Napolitano 100.000 firme raccolte in 30 ore, una richiesta, quella di cancellare l'evento, che, lo ricordiamo, era arrivata anche da alcuni partiti come Italia dei Valori, SEL e Lega, ma la decisione, come dicevi anche tu, è presa. La festa della Repubblica si celebrerà all'insegna della sobrietà nel ricordo delle vittime del terremoto, non sfileranno mezzi né cavalli, non si alzeranno in volo le frecce tricolore. I numeri già quasi dimezzati rispetto all'edizione dello scorso anno sulla scia della Spending Review subiscono dunque un ulteriore taglio di oltre il 20%, a sfilare non saranno più di 2.500 militari civili contro i 3.200 iniziali. E come recita un comunicato del Quirinale, la festa sarà occasione per rafforzare la fermezza e la fiducia con cui affrontare i problemi dell'oggi e del domani, a cominciare da quelli delle popolazioni colpite dal terremoto. Insomma, non è possibile rinunciare proprio ora, secondo Napolitano, ad una celebrazione che è prova di unità e coesione nazionale. Da Roma è tutto. Gera 24, seconda parte, ben ritrovato. Ecco i titoli di oggi: terremoto in Emilia, oltre una trentina di scosse nella notte, danni per oltre 2 miliardi di euro. Il ministro Clini dice 15 anni per rimettere in sicurezza il suolo. Il governatore della Banca d'Italia Visco: ridurre la spesa e le tasse, la ripresa sarà possibile a fine anno. In Nigeria, rapito un ingegnere italiano, stava effettuando un sopralluogo. E ripartiamo proprio dalle parole del governatore della Banca d'Italia Visco alle sue prime considerazioni finali, e sentiamo che cosa ha detto con Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno. Una fotografia sullo stato dell'economia, quindi alcune indicazioni su come uscire dalla crisi. 18 pagine per le prime considerazioni finali dal governatore della Banca d'Italia per Ignazio Visco. Tirarci fuori dallo stretto passaggio che attraversiamo impone costi a tutti, avverte Visco. Sono costi sopportabili, aggiunge, se ripartiti equamente e con una meta chiara, ma il percorso non sarà breve. Per l'Italia, dice ancora il governatore, il 2012 sarà un anno di recessione per le incertezze finanziarie e le drastiche, pur se indispensabili, misure di correzione del bilancio pubblico. In scenari non troppo sfavorevoli, la caduta del prodotto interno lordo, spiega il numero uno dell'Istituto di Via Nazionale, può essere contenuta intorno all'1,5%. Una ripresa potrà affiorare verso la fine dell'anno, anche se sulla crescita, indica Visco, pesa il forte aumento della pressione fiscale. Sentiamo allora questo passaggio. L'inasprimento non può che essere temporaneo. La sfida si sposta, occorre trovare, oltre a più ampi recuperi di evasione, tagli di spesa e compensino il necessario ridimensionamento del peso fiscale. Se accuratamente identificati e ispirati ai criteri di equità, i tagli non comprometteranno la crescita, potranno concorrere a stimolarla se saranno volti a rimuovere inefficienze dell'azione pubblica, semplificare i processi decisionali, contenere gli oneri amministrativi. Ed ancora il fronte lavoro, il governatore in questo caso parla delle banche, ascoltiamo Visco. Sono necessari interventi incisivi dal lato dei costi operativi, la cui flessibilità è modesta in relazione alle condizioni di fondo del settore. L'attuale livello del costo del lavoro è difficilmente compatibile con le prospettive di crescita del sistema bancario italiano. Anche le remunerazioni degli amministratori e dell'alta dirigenza devono essere indirizzate all'obiettivo del contenimento dei costi. Visco chiede quindi alla politica di rinnovarsi andando incontro alle aspirazioni dei giovani e alle imprese lo sforzo aggiuntivo di rafforzare il capitale nel momento in cui si assicura loro la semplificazione normativa. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e dalle parole del governatore della Banca d'Italia a quelle del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi oggi in una audizione al Parlamento Europeo. Servono consolidamento fiscale e però anche chiarezza sul piano politico, ha detto Draghi, con delle considerazioni sicuramente fuori dai canoni tradizionali di un presidente della BCE. Ha detto: bisogna sapere come sarà l'Europa tra 10 anni. Al di là dei tecnicismi, che in questo caso rappresentano anche la sostanza, perché si tratta di capire come il fondo salva stati possa essere utilizzato per salvare le banche, Mario Draghi non si lascia sfuggire l'occasione per dire, nemmeno troppo tra le righe, che i responsabili europei devono chiarire la loro visione sul futuro dell'euro, altrimenti la crisi sarà difficile superarla. Questo è il momento della politica, afferma il numero uno della BCE. Sarà il miglior contributo alla crescita e permetterà di ridurre la pressione sui titoli di Stato dei singoli paesi. Per rafforzare il concetto, Draghi tratteggia anche lo scenario. Siamo a un bivio, la moneta unica è a un bivio, come nel 92, e come allora è necessaria una visione per i prossimi 10 anni che solo i leader politici possono dare. La BCE non può sostituirsi ai governi nel fronteggiare la crisi, una crisi nella quale il debito di alcuni paesi non è più percepito come sostenibile. Più in concreto, Draghi ha detto che si sta studiando il modo di utilizzare il fondo salva stati permanente dell'Eurozona come strumento per ricapitalizzare direttamente le banche in difficoltà. E a questo proposito non ha mancato di fare un richiamo. Nella gestione di alcune emergenze si è sottovalutata l'importanza del problema e questo è il modo peggiore di fare le cose, che alla fine vengono fatte, ma a costi più alti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Così dunque anche l'audizione di Mario Draghi al Parlamento Europeo. E restiamo sui mercati finanziari, ritroviamo la voce di Deborah Rosciani che dal Festival dell'Economia di Trento ci fa di nuovo il punto sui mercati. Deborah, buongiorno. Sì, buongiorno anche a voi. Borse europee positive a metà giornata, confortate anche dalle dichiarazioni del Presidente della Banca Centrale Europea Draghi dinanzi agli europarlamentari. Il quadro vede un rialzo dello 0,8% su Piazza Affari, Parigi più 0,7%, Francoforte più sottotono, oggi segna più 0,3%, Madrid più 0,4%, anche Madrid andava molto meglio nella prima parte della giornata, adesso rallenta sensibilmente il passo, Londra in rialzo dello 0,8%. Mercato attende a questo punto, oltre alle indicazioni macroeconomiche europee, soprattutto quelle americane che arriveranno nelle prossime ore. Oggi avremo i dati dell'agenzia ADP sull'andamento dell'occupazione americana, ma la statistica ufficiale arriva invece domani, naturalmente primo giorno del mese, e domani conosceremo il tasso di disoccupazione statunitense. Per il mese di maggio sapremo quanta nuova occupazione ha creato l'economia americana in questo mese. A Piazza Affari oggi tiene banco il caso Eni, Snam e Rete Gas, dopo la notizia della cessione del 30% della società di distribuzione del gas alla Cassa Depositi e Prestiti. Su questa conferma arrivata ieri sera a mercati chiusi, Eni guadagna il 2%, ma Snam ne guadagna il 4%. Bene STM più 2,35%, in pregiro più 2 tra i ribassi, Fiat meno 2, Azimut meno 1,42%. L'euro sul dollaro tiene a fatica la soglia di 1,24, lo spread fra BTP e Bund si è raffreddato rispetto al volo fatto ieri verso l'alto, ma siamo ancora su livelli molto sostenuti, 457 punti base per ora da Trento. È tutto. Grazie Deborah Rosciani. Adesso andiamo con le notizie all'estero. Iniziamo dalla vicenda di un ingegnere italiano rapito in Nigeria. Massimo Riserbo dal Ministero degli Esteri sull'uomo che è stato rapito in Nigeria. Modesto Di Girolamo, ingegnere della Borini e Prono Costruzioni di Torino. L'uomo è stato rapito lunedì nella città di Lorin, nel nord del paese, mentre stava verificando i lavori per la costruzione di una strada. Mancano al momento rivendicazioni o richieste di riscatto. Ora che la libertà su cauzione è una realtà, si lavora per soddisfare le condizioni poste dall'alta corte di Cochi. Non ce la si farà per oggi, ma almeno si sa che cosa fare. Ci sono da consegnare i passaporti con i visti richiesti dal giudice e da fornire tutte le altre garanzie, tra cui il deposito di 143.000 euro a testa e l'individuazione di due persone indiane che facciano da garante ai Marò. Poi bisognerà trovare a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone un alloggio entro un raggio di 10 km dal commissariato, presso il quale avranno l'obbligo quotidiano di firma. È un passo avanti che fa tirare un piccolo respiro di sollievo alle famiglie e certamente anche ai Marò. Ma il ministro degli esteri non nasconde la sua irritazione. Dalle autorità federali indiane e anche dallo Stato del Kerala, dice Terzi, ci attendiamo una maggiore collaborazione. Questa vicenda rappresenta una priorità altissima, direi assoluta, nel rapporto tra Italia e India, aggiunge il ministro, negli effetti politici, giuridici e internazionali. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Questo era il servizio sull'altra vicenda dei due italiani che sono ancora in stato d'arresto, anche se, come avete sentito, liberati sotto cauzione in India. Chiudiamo con un appuntamento, perché nasce un nuovo premio letterario, è stato presentato oggi a Milano. Sentiamo di cosa si tratta. Si chiama Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza e, come si capisce bene dal titolo, è indetto dalla casa editrice vicentina, che vuole un po' continuare la tradizione del suo fondatore, puntare sulla narrativa letteraria e non sul semplice intrattenimento. E qui c'è la prima particolarità del premio: è esclusa la narrativa di genere, quindi gialli, polizieschi, fantasy, memoir. La Neri Pozza vuole premiare quel tipo di narrativa che non è solo fiction, ma ha un contenuto conoscitivo. Il direttore editoriale della casa editrice, Giuseppe Russo, sottolinea come mentre negli anni 70 in classifica c'erano autori come Sciascia e Pasolini, ora ci sono Faletti e la Lipizzetto. Insomma, c'è voglia di tornare ad un certo tipo di letteratura di qualità. Il premio, e qui il secondo punto, è riservato a manoscritti inediti scritti in italiano. Al vincitore la pubblicazione del libro da parte di Neri Pozza e ben 25.000 euro, praticamente il premio letterario più ricco d'Italia. Una giuria composta da critici, giornalisti, ma anche agenti letterari, designerà il primo vincitore a settembre 2013. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. Era l'ultimo servizio ed era anche l'ultima notizia. È tutto per questa edizione di GR24. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.